Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questa giornata del giovedì 16 gennaio, una mattinata che vede lo sgombro di SEM24 con cui siamo regolarmente in contatto con appuntamenti telefonici periodici. Infatti dopo Radio Bullet avremo l'ennesimo collegamento con il luogo dello sgombero. Allora subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Bullets. Giovedì 16 gennaio 2020, questo è il notiziario quotidiano di Radio Bullets e io sono Angela Gennaro. I titoli di oggi. In Francia, i sindacati lanciano l'appello per una mobilitazione generale per ottenere il ritiro della riforma sulle pensioni, ancora al 43esimo giorno. Stati Uniti. La speaker della Camera Nancy Pelosi firma i due articoli di impeachment contro il presidente Donald Trump. Barack Obama candidato alle presidenziali in Kenya. Il Sudafrica è alle prese con il salvataggio della compagnia di bandiera mentre in Nigeria esplode il convoglio che trasporta un emiro. E infine, più sesso, meno menopausa, lo dice la scienza. Partiamo dalla Francia, dove i sindacati che stanno lottando contro la riforma delle pensioni hanno lanciato un appello a una nuova giornata di sciopero e di manifestazioni per il prossimo 24 gennaio, giorno in cui il progetto di legge verrà esaminato in Consiglio dei Ministri. L'appello è quello a una mobilitazione generale delle diverse categorie professionali per ottenere il ritiro della riforma e l'apertura di un serio negoziato. E sale a 3 il numero delle vittime dell'esplosione di 2 giorni fa in uno stabilimento chimico a Tarragona, nel nord-est della Spagna. Uno dei dipendenti della fabbrica è morto infatti ieri in ospedale a causa delle gravi ustioni riportate. 7 sono le persone ferite e ancora ignote sono le cause dell'esplosione. Oggi, secondo Agenda, il principe Harry presiede il sorteggio della Coppa del Mondo di rugby, una settimana dopo l'annuncio del suo ritiro dalla famiglia reale. Stai ascoltando Radio Bullets. Le ampie riforme delineate dal presidente Vladimir Putin, e così ci spostiamo in Russia, che ieri hanno portato alle dimissioni del governo presieduto da Dmitry Medvedev, secondo quanto ha twittato l'oppositore russo Alexei Navalny, mostrerebbero e dimostrerebbero che restare l'unico leader a vita, appropriarsi di un intero paese, appropriarsi della ricchezza per se stesso e i suoi amici, è l'unico obiettivo di Putin e del suo regime. Così ha scritto l'oppositore russo su Twitter. Stati Uniti. La speaker della Camera Nancy Pelosi ha firmato i 2 articoli di impeachment contro il presidente Donald Trump in una cerimonia formale e potrebbero essere trasmessi già oggi stesso al Senato, quando i senatori presteranno il giuramento per essere giudici imparziali. Gli articoli saranno consegnati dai 7 manager nominati tra i deputati democratici che durante il dibattimento eserciteranno le funzioni della pubblica accusa. Stai ascoltando Radio Bullets. In un annuncio a sorpresa destinato a ribaltare la politica per gli anni che verranno, l'ex presidente americano Barack Obama ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2021. Come dite? Le elezioni negli Stati Uniti sono nel 2020? E come dite, Obama ha già fatto 2 mandati? Ma infatti non parliamo affatto del ribaltamento della politica americana, ma di quella africana. In particolare non parliamo degli USA, ma parliamo del Kenya. No, non è l'ERCE. È il World News Daily Report che il 14 gennaio ha pubblicato un articolo in cui si afferma che l'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sta progettando di candidarsi per le elezioni presidenziali in Kenya del 2021. D'altro canto, Barack Obama Senior, Barack Hussein Obama, il papà, del 44esimo presidente degli Stati Uniti in carica dal 2009 al 2017, è nato nel villaggio di Kanyadiang, nel Rachuonyo District, sulle rive del lago Victoria, appena fuori Kendu Bay in Kenya. La notizia di una candidatura di Obama per le presidenziali in Kenya è stata rilanciata da alcuni siti, ma è Savasandir, una fake news, o per meglio dire satira in questo caso. Infatti il World News Daily Report, non è Lercio, è un sito web satirico di fake news assai più caustico di Lercio e esplicito e rozzo. L'articolo satirico, nota il sito Snopes nel suo fact-checking, commenta l'idea da lungo tempo sfatata secondo cui Obama è nato in Kenya, non negli Stati Uniti, una fake news, una voce falsa al centro delle teorie cospirazioniste sulla cittadinanza di Obama per anni, che generava un flusso quasi infinito di notizie spazzatura. Obama, lo ricordiamo, è nato a Honolulu, la capitale e la più grande città dello stato americanissimo delle Hawaii. You're the last to hear the warning. If you try to throw your arms around the world. E spostiamoci in Africa, in Nigeria, dove uomini armati in uniforme militare hanno attaccato un convoglio dove viaggiava un emiro, leader politico e religioso nigeriano, uccidendo 6 persone. L'aggressione risale a martedì. Altre 5 persone hanno riportato ferite nell'attacco che si è verificato lungo l'autostrada Kaduna-Zaria e un numero ancora da determinare di persone è stato anche rapito. In una dichiarazione inviata a Premium Times, il portavoce della polizia di Kaduna, Yakubu Sabo, ha affermato che l'attacco è stato condotto sul convoglio dell'emiro di Potiskum, nello stato di Yobe. Non è chiaro se l'emiro fosse nel veicolo o tra le vittime. Tutto il mondo è paese. Il Sudafrica è alle prese col salvataggio della compagnia di bandiera aerea. La South African Airways, infatti, potrebbe dover sospendere alcuni voli e ritardare i pagamenti degli stipendi se il governo non riuscirà a elaborare un piano per pagare e fornire i 2 miliardi di rand, corrispondono a 139 milioni di dollari circa, promessi il mese scorso alla compagnia aerea. In gioco ci sono 10.000 posti di lavoro. La South African Airways è una delle numerose compagnie statali impantanate nella crisi finanziaria dopo quasi un decennio di cattiva gestione e corruzione nell'economia più industrializzata del continente africano. L'Ethiopian Airlines ha annunciato l'intenzione di costruire il più grande aeroporto dell'Africa e i lavori potrebbero cominciare già a luglio. L'amministratore delegato della compagnia aerea, Tewolde Gebremariam, ha detto alla Ethiopian Broadcasting Corporation che l'aeroporto potrebbe essere più grande del francese Charles de Gaulle. Charles Kwabla Akonnor è il nuovo allenatore della nazionale del Ghana. La decisione, annunciata dalla Federcalcio, arriva 2 settimane dall'azzeramento di tutte le cariche federali e dallo scioglimento delle nazionali, anche quelle di categorie inferiori e quella femminile, in seguito all'arrivo della nuova dirigenza, insediatasi dopo la fine del commissariamento della Federcalcio per accuse di corruzione. Akonnor, ex centrocampista del Fortuna Colonia e Wolfsburg in Germania, è il successore di Kwasi Appiah, il cui contratto a dicembre non era stato rinnovato. Il Ghana, che non si era riuscito a qualificare al Mondiale di Russia, a marzo giocherà la sua prima partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. L'ufficio di corrispondenza del Cairo dell'agenzia turca Anadolu è stato chiuso e 4 dipendenti, tra cui un turco, sono stati arrestati con l'accusa di pubblicazione di notizie false e di attività non autorizzata. A comunicarlo è stata una fonte del Ministero dell'Interno egiziano. I 3 fermati, in attesa di interrogatorio, sono di nazionalità egiziana, ha aggiunto la fonte. Ankara e il Cairo sono in questo momento in piena rivalità geopolitica in Medio Oriente e quindi anche in attrito in Nord Africa a causa dell'intervento della Turchia nella crisi libica, paese che è limitrofo all'Egitto. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. E poi l'Iran. Attraverso l'analisi di filmati e fotografie, resoconti di vittime e testimoni oculari, Amnesty International è giunta alla conclusione, dice una nota, che le forze di sicurezza iraniana hanno agito illegalmente nei confronti dei manifestanti scesi in strada per protestare dopo l'ammissione da parte delle autorità di Teheran dell'abbattimento di un aereo di linea ucraino. L'11 e il 12 gennaio le forze di sicurezza hanno mirato ai manifestanti con fucili ad aria compressa, normalmente impiegati per la caccia, e hanno usato proiettili di gomma, lacrimogeni e spray al peperoncino per disperdere i manifestanti, prendendoli anche a calci, pugni e manganellate, compiendo arresti arbitrari, dice Amnesty International. Sembra incredibile che le forze di sicurezza abbiano represso con la violenza la protesta pacifica di chi chiedeva giustizia per i 176 passeggeri morti a bordo dell'aeroplano ed esprimevano la propria rabbia per i dinieghi iniziali delle autorità iraniane, dice Philippe Luter, direttore delle ricerche sul Medio Oriente e l'Africa del Nord di Amnesty International. Amnesty ha chiesto agli stati che fanno parte del Consiglio delle Nazioni Unite dei diritti umani di convocare una sessione speciale per avviare un'inchiesta sulle uccisioni illegali di manifestanti, sull'ondata di arresti e sulle torture ai danni dei detenuti. E infine chiudiamo il notiziario di oggi con una buona notizia: il sesso fa bene. Ok, questa non è esattamente una notizia, è abbastanza noto, ma il sesso fa bene ritarda l'inizio della menopausa nelle donne. Questa è una notizia. Alcuni ricercatori britannici hanno monitorato la vita sessuale e la menopausa di quasi 3.000 donne americane per un decennio. I dati sono stati raccolti in un lungo lasso di tempo e hanno scoperto che coloro che facevano meno sesso avevano maggiori probabilità di iniziare la menopausa in età precoce. I risultati del nostro studio suggeriscono che se una donna non sta facendo sesso e non ci sono possibilità di gravidanza, il corpo sceglie, tra virgolette, di non investire nell'ovulazione perché sarebbe inutile, spiega la ricercatrice Megan Arnott. Potrebbe esserci un compromesso energetico biologico tra l'investimento di energia nell'ovulazione e l'investimento altrove, come per esempio quello per mantenersi attivi, per occuparsi dei nipoti e delle nipoti, dice ancora Arnott. I medici sanno da tempo che la continua attività sessuale porta molti benefici, spiega Jennifer Wu, ostetrica e ginecologa al Lenox Hill Hospital di New York City. Una menopausa tardiva fa bene anche perché, spiega, può significare ossa più forti e livelli di colesterolo migliori. Valgono anche il sesso orale, il petting e la masturbazione, quindi, citando gli U2, ai fini dell'allontanamento della menopausa, anche in questo caso eventualmente una donna ha bisogno di un uomo come un pesce ha bisogno di una bicicletta. Si può anche essere single. E per oggi con il notiziario di Radio Bullets è tutto. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri podcast e le nostre rubriche. E per sostenere il nostro lavoro di redazione indipendente, piccola e orgogliosamente libera, potete andare su radiobullets.com/sostienici e scoprire come fare. Samba Empathy di gruppo di Santana, ma interrompiamo la dolcezza di Samba Empathy perché ci rimettiamo nelle vicende bolognesi, perché Alessandro, il nostro direttore, è in contatto con l'Isame 24. Sì, questa mattina le forze dell'ordine intorno alle 6 si sono presentate per sgomberare anche l'ex caserma Sani dopo lo sgombero di agosto e l'occupazione del 15 novembre. Vi abbiamo fatto una prima corrispondenza alle 7.30 che ritrovate sul sito radiocittafugico.it. Siamo nuovamente in collegamento con i compagni di XM24 che si sono mossi in corteo. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, siamo ora in corteo su Via Stalingrado, dove stiamo bloccando in questo momento entrambe le corsie. Ci sono centinaia di persone radunatesi questa mattina già dalle 7 fuori dallo spazio di Via Barri Ferrarese, dall'ex caserma Sani, che avevamo occupato circa 2 mesi fa, anzi precisamente 2 mesi fa, il 15 novembre. E ti ho già parlato prima un po' della situazione che stiamo vivendo. Pensiamo che le responsabilità siano tutte politiche e siano dell'amministrazione, del Partito Democratico, che in questo momento governa sia in città, sia in regione e sia al governo nazionale. Quindi Cassa Depositi e Prestiti, che è la proprietaria dell'immobile dove eravamo noi e dove vorremmo tornare con un progetto cittadino, è in questo momento risponde al Partito Democratico, che non deve nascondersi, e chiediamo in qualche modo un'interlocuzione con loro, con Cassa Depositi e Prestiti, porre la nostra progettazione alternativa di quell'area che loro vorrebbero svendere per un uso turistico, residenziale, commerciale. Ecco, appunto, hai ricordato l'appello che avevate lanciato già questa mattina all'alba per un tavolo per discutere appunto del destino di questi spazi. Avete avuto qualche risposta fino a questo momento? No, anche questa volta nessuna risposta. Capiamo che è un po' il modus operandi di questa amministrazione, farsi di nebbia, come è tipico nella pianura padana dove siamo in questo periodo dell'anno. Anche loro si fanno di nebbia, e l'hanno già fatto quando siamo entrati dentro la caserma Sani, dicendo fin da subito che non volevano saperne nulla loro e che era in mano a Cassa Depositi e Prestiti, che come dicevo prima comunque risponde a loro, e anche in questo caso non si sono fatti vivi in nessun modo. Noi continueremo a questo punto la nostra battaglia di autogestione e continueremo insieme all'altra città. Quindi questa mattina la proposta era valida, di incontrarci per un tavolo. A questo punto ridiscutiamo, lo capiamo. Noi sappiamo che vogliamo, insieme a una grassa fetta di città, insieme a tante altre persone, tornare alla caserma Sani e progettare una nuova gestione dal basso di quell'area immensa, verde, pubblica, per tutti e per tutte. La responsabilità del comune sarebbe giusto e doveroso per loro fare un passo per sbloccare questa situazione, ma li conosciamo ormai bene, sappiamo che difficilmente faranno questo. Ecco, il percorso, diciamo, di controprogettazione che avevate ipotizzato e deciso nell'assemblea di venerdì scorso avrebbe dovuto cominciare sabato. Cosa succederà, cosa farete sia oggi che nei prossimi giorni? Guarda, ancora non abbiamo avuto modo di discutere tra noi, quindi nelle prossime ore faremo uscire quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Rispetto ai tavoli di sabato, io credo che ci sia l'intenzione di confermare quell'appuntamento, perché sapevamo quando abbiamo cominciato quel percorso che sarebbe potuto arrivare lo sgombero, e quindi eravamo pronti a questo e vogliamo comunque mandare avanti quel percorso. Non interferirà questo sgombero, ma semmai, anzi, darà nuova forza, nuova linfa a quel percorso collettivo cittadino. Quindi l'intenzione è comunque di confermare i tavoli di sabato. Poi ovviamente stasera capiremo un po' tutti quanti insieme come comportarci. Sappiamo anche che vogliamo in qualche modo tornare a battere sotto i palazzi del comune per dire: sappiate che questa roba non andrà lì. Certo, adesso forse... E noi vorremmo dirlo chiaramente alla città. Ecco, e quindi adesso il corteo va avanti, detto siete su via Stalingrado, avete intenzione magari di andare sotto il comune, che come dire... No, non lo so, adesso non te lo so dire di preciso, il corteo è partito spontaneo e stiamo decidendo di metro in metro come muoverci. Quindi non te lo so dire, non è detto che in questo momento andremo al comune, certo. O invece sceglieremo ancora di stare nelle strade del quartiere bloccandole e facendo quello che vogliamo fare. Certo. Beh, insomma, io intanto ti ringrazio e poi ovviamente nel corso della giornata avremo nuovi aggiornamenti. Grazie mille. Perfetto, grazie a voi, a presto. E allora appunto, questo era un attivista di XM24, ricostruisco velocemente questa vicenda. Appunto, come sapete, lo scorso 6 agosto XM24 è stato sgomberato dallo spazio in cui stava, diciamo, da quasi 20 anni in via Fioravanti 24. Era subito nato un tavolo con l'amministrazione comunale che in un documento, tra l'altro firmato dall'assessore Matteo Lepore, aveva promesso ad agosto, il 6 agosto, di trovare un nuovo spazio al centro sociale entro il 15 di novembre. La trattativa è andata male perché tutti gli spazi proposti di XM24 sono stati bocciati appunto dall'amministrazione, che invece ne aveva indicato uno in via Zanardi molto periferico e sembrata una provocazione, una sorta di DASPO, così hanno detto attiviste e attivisti appunto in quell'occasione. E il 15 novembre, che era il giorno di scadenza di questa deadline fissata dallo stesso comune, c'è stata l'occupazione dell'ex caserma Sani, che si trova, è una struttura enorme, che si trova tra via Ferrarese e via Parri, insomma sempre nel quartiere Bolognina. Gli attivisti sono entrati, l'hanno un po' ripulita e hanno ridato vita a uno spazio che era molto chiuso, che era chiuso da molto tempo, uno spazio di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, che ha subito denunciato l'occupazione, e le autorità giudiziarie sono andate avanti, diciamo, con il sequestro preventivo. Lo sgombero era già atteso sotto Natale, non c'è stato, è arrivato questa mattina alle 6. Alcuni attivisti erano all'interno, altri erano fuori, solidali, hanno acceso un sound system, dall'interno hanno lanciato anche un fuoco d'artificio, e appunto c'era questa richiesta da parte appunto di XM24, rivolta al comune, alle istituzioni, al Partito Democratico, di aprire un tavolo di trattativa per il destino dell'ex caserma Sani, perché su quella struttura c'è un progetto stabilito dal POC, dal piano operativo comunale del 2016, che prevede la vendita, l'alienazione si dice in termini burocratici, di quella struttura per realizzare un 70% di edilizia privata e un 30% tra commerciale, ricettivo, quindi alberghi e servizi. Un progetto che XM24 ritiene speculativo, e quindi ha avanzato questa controproposta, questa controprogettazione dal basso di questi spazi. Abbiamo visto, abbiamo sentito insomma che gli attivisti sono usciti da quella struttura e sono in corteo, prima su via Ferrarese, adesso su via Stalingrado, e appunto prosegue il corteo. Questo è quanto appunto per quanto riguarda XM24. A chi ci ha mannato a fare questa guerra, pazzianna, pazzianna, sto anima va a terra. A chi fa ricotti o patroli a sapote, si tu ciacceri in vista sarà strafotto. Lavoro tra le pecori e i cani per far mangiare l'agnello ai padroni. Se mangiano la carne di padroni, a noi ci danno l'ossa come i cani. Stanotte già sono l'usurda fiella, la vostra cucina, suonavo tamburello. Guardatevi un martello, rompi la bobo, che cosa ne vuoi fare? Che cosa faccia fare? Lo voglio dare in testa, mangiando, mangiando, mangiando, mangiando, a chi non mi va? A chi ci ha mannato a fare sta guerra, pazziana, pazziana, e si anima va a terra. A chi fa ricotti o patroli a sapote, se noi giaceri in vista sarà strafotto. Una pazzia, prendimi madre, portami via, non mi unisca a questo coro, voglio stonare, resto solo, sono in preda ad un tormento, pardono, pardono e non ci sentono, pardono, pardono, pardono, pardono, pardono, pardono e non ci sentono. Chi esce sole, sole sande, che riscalda tutte quante, che riscalda la mia gente, onda d'urto che si accende. E modulo, modulo, modulo, modulo, modulo qua, e modulo, modulo, modulo, modulo, modulo là. La notte già sognata, l'usurda fiella, la vostra cucina, suonavo tamburello. La notte già sognata, la cielo e terra, la vostra spara e pompa, buttavo su da terra. Din din din din din din din din din din da, din din din. Ma si vive nuda, piace cantare, ci piace, ci piace, ci piace trombare, ci piace volare, ci piace pensare, ci piace, ci piace, ci piace sognare. E muoviti, muoviti, muoviti, datti da fare. E muoviti, muoviti, muoviti, inizia a pensare, inizia a cambiare, inizia a lottare. E datemi un martello, avanza, vota, alza, che la piena, che cosa ne vuoi fare? Che la piena ci può pensare, lo voglio dare in testa. Pure che dice, ci pensa sai, a chi non mi fa? Quella piena non ci pensa mai. Rassegna stampa di Radio Città Fucita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. Nove e 30 minuti per questa nostra giornata della rassegna stampa, che apre naturalmente salutando i compagni in questo corteo nelle strade di via Stalingrado dopo lo sgombero dell'SM24. Ma noi guardiamo anche i fogli, come il Manifesto, che apre con Cetola Qualunque, il riferimento al film di Albanese, perché ci riporta a questa scuola, così definita nella didascalia della prima pagina del Manifesto, un plesso scolastico per i figli dell'alta borghesia, un altro per i figli del ceto medio-basso e un terzo per bambini stranieri più poveri. A Roma l'istituto comprensivo, che poco è davvero comprensivo, del Trionfale, separa gli alunni per classi sociali, ma la bufera anti-apartheid costringe la scuola al retromarcio. Ovviamente poi sono le dichiarazioni, no, noi volevamo solamente aiutare le classi più disagiate, intanto mettendolo in un reparto confino. Quindi classismo a scuola, conferma anche il Manifesto a pagina 6, qui l'alta borghesia, lì i figli dei poveri. La presentazione online dell'istituto comprensivo di Trionfale a Roma, poi modificata, scatena la polemica e l'intervento del MIUR, l'organismo scolastico. Ma il Manifesto va a guardare con Roberto Cicciarelli che questa dichiarazione così spudorata e senza alcun senso di vergogna non è altro che il prodotto di un sistema neoliberale che ha trasfigurato l'istruzione. Effettivamente il vero torto di questa scuola è di aver reso ufficiale, di aver sintetizzato quello che è una dinamica che nella scuola esiste, a forte tagliare i finanziamenti e favorire appunto la privatizzazione sia nel privato che nel pubblico dell'istruzione nel nostro paese. Ma lo scandalo oggi sui giornali è alto, perché Valentina Santarpia, per esempio, dal Corriere, qui l'alta borghesia, là invece i ceti bassi, e c'è appunto il Corsera che riporta il pezzo online di questa terrificante dicitura. La scuola dovrebbe sempre favorire l'inclusione, descrivere la popolazione scolastica per censo non ha alcun senso, invece ha un senso profondo, anche se molto negativo, è un senso profondamente classista. In netta la posizione dei dirigenti scolastici, c'è il rischio di originare idee o forme classiste. E allora su questo interviene anche Gramellini in Questione di classe, dove sta classe sta per aula, ma sta anche per ceti sociali. Gli autori del pasticciaccio brutto di via Trionfale, citando appunto il noto libro, hanno giurato che le loro parole avevano un senso descrittivo e non discriminatorio. Un genitore medio-basso potrà continuare a scrivere il suo figlio alla scuola medio-alto, e ci mancherebbe, commenta Gramellini. Ma il tema sollevato da questo caso riguarda qualcosa di molto più ampio, riguarda il linguaggio e i valori che lo ispirano. Sappiamo che tanti genitori cercano di sistemare i figli nella scuola più omogenea per il loro ambiente sociale, ma non possono essere dirigenti della scuola pubblica a rammentarglielo per iscritto. La scuola pubblica, e quindi è più o meno il tema di Gramellini, si fa ma non si dice. Bisogna contrastare questa riproduzione della cultura delle classi sociali, ma basta non dirlo, i genitori poi sono liberi di farlo. Ma andiamo avanti. La scuola pubblica è nata per consentire l'uguaglianza di punti di partenza, un'utopia forse, però è di questo genere di utopie che si muove il lessico della democrazia. Rinunciare non solo a perseguirle, ma ormai persino a nominarle, a qualcuno sembra un esercizio di realismo. Temi invece che assomigli, dice Gramellini, ad una resa. Buongiorno Alfredo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Questa notizia di classismo sociale sui banchi di scuola ha fatto sobbalzare anche il Carlino, tant'è che c'è una bella pagina che illustra tutta la questione. Dice: presentazione shock sul sito di un istituto comprensivo romano, la divisione fra quattro diverse sedi della scuola, ma il ministro Azzolina dice una scelta senza senso, e poche ore dopo scompaiono i riferimenti al censo e al al sociale. Le sezioni più esclusive accolgono anche, questa è la discolpa del preside della scuola, le sezioni più esclusive accolgono anche i figli delle badanti che lavorano per le famiglie agiate. E c'è una descrizione sul fenomeno: ricchi e italiani, così i licei vanno a caccia di iscritti. Discriminazione, classismo per aumentare le iscrizioni. Il caso dell'Istituto Romano di Via Trionfale non è isolato. Già in passato la deriva discriminatoria aveva infettato altri istituti blasonati e il famoso liceo Visconti, scuola di Rampolli della Roma Bene, presentandosi anni fa, assicurava che le famiglie che scelgono il liceo sono di estrazione medio-borghese, figuriamoci. E c'è un'altra notizia, un ammonimento da parte di un questore per un gruppo di quindicenni che avevano bullizzato su una chat un giovane disabile. La giovane vittima ha avvertito la situazione di disagio e di malessere psicofisico e ha quindi scelto di abbandonare il gruppo, trovando la forza di raccontare a scuola e a casa quello che gli era accaduto. Il padre ha deciso allora di rivolgersi alla polizia. E anche il Fatto Quotidiano con Vincenzo Bersbiglie scrive: Roma Nord, la scuola divisa in classi sociali, di qua i borghesi, di là i poveri. E del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente ne può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo afferma, non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo afferma, sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso. Voi gente per bene, che pace cercate? La pace per far quello che voi volete. Ma se questo è il prezzo, vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sottoterra. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Ma se questo è il prezzo, l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. La vecchia contessa risuona in questi momenti di classismo feroce, con piovono pietre tutte sulla classe operaia. Ma veniamo allora al governo. Il Messaggero di Roma: conti correnti, partono i controlli. Da gennaio verifiche automatiche a chi chiede l'ISE per l'accesso ai sgravi e sussidi IRPEF, con il taglio delle tasse per i 3,4 milioni di dipendenti, pensioni sorpresa sui redditi. Su questo versante interviene da Messaggero di Roma, andiamo al Mattino di Napoli, con questo scandalo del Mattino: il paradosso delle pensioni crescono più degli stipendi. I dati dell'Istat nel 2000 importano meglio del su del 70%, il doppio del reddito da lavoro. Dopo tre anni torna a crescere la spesa, evasione e via i controlli sui conti correnti. E appunto il Mattino rovescia le due domande, mettendo appunto da una parte le pensioni che crescono più degli stipendi, dall'altra parte appunto dei controlli sui conti correnti. Su questo versante, questo stupore che le pensioni governino siano più pesanti dei conti correnti, questi stupori, Pempi interviene Marco Travaglio con Chiamate la Neuro. Dice perché va a diversi punti di deliri della politica. Va di gran moda prendersela con reddito di cittadinanza perché non crea nuovi posti di lavoro. Il giornale titola: anche l'INPS ammette, il reddito di cittadinanza non crea occupazione. Per il presidente Tridico impatto quasi nulla, anche Gualtieri si è convinto che vada cambiato. Ma fosse solo la stampa umoristica, dice appunto Travaglio parlando del giornale, non sarebbe un problema. Ma in realtà la sottosegretaria al lavoro del PD Francesca Puglisi dice al Corriere che col reddito di cittadinanza chi non lavora è favorito. O bella, sarebbe strano il contrario, visto che la cittadinanza è stato pensato appunto per chi non trova lavoro e non ha di chi ricampare. Questo appunto sono i paradossi della questione. E tra l'altro impariamo oggi proprio dal Corriere Economia che le pensioni sostengono il 60% delle famiglie italiane, quindi è un rito familiare ormai, visto che è il nonno che tiene a galla il nipote che non trova lavoro. Ma andiamo invece al Dubbio. Prescrizione, la maggioranza si spacca. Bocciata la proposta del forzista Costa che avrebbe bloccato la riforma di Bonafede. Polemiche sul voto di Businarolo, e quindi veniamo a Italia Viva. Allora, così descritto dalla prima pagina del Corriere della Sera. Prescrizione, l'Italia, Renzi, PD. Lite, scusate, Renzi e il PD. Italia Viva vota con Forza Italia, accusa gli alleati, inseguono il populismo grillino. E allora dal versante populista grillino risponde la replica alla notizia. Fallito il blitz di Renzi con Forza Italia, resiste la riforma Bonafede sulla prescrizione. Bonafede ci compiace perché è stato isolato l'Italia Viva in questo caso. Italia Viva poi si vendica. In Calabria Italia Viva non sosteniamo nessuno, Orlando ha un déjà vu. Quindi oltre che presentare un candidato alternativo in Puglia, in Calabria appunto si tiene le mani libere, cioè non dà indicazione di voto per Forza e la maggioranza. Quindi vendette contro vendette, qui si torna alla prescrizione, dai liti al voto contrapposto, Giallo Rossi sulla mina della giustizia, racconta appunto il Manifesto. Sì, riguardo governo e partiti, prendiamo in esame le pagine di Repubblica e c'è una querelle fra appunto il giornale Repubblica e Salvini. L'ex ministro critica il titolo di prima pagina di ieri del quotidiano, è istigazione a delinquere, e annuncia un esposto all'ordine e il direttore risponde, è solo la sintesi giornalistica dell'intervista a Del Rio sulla cancellazione dei decreti sicurezza. E ancora si parla di Salvini e la Gregoretti, oggi l'aula deciderà quando la giunta dovrà esprimersi, scontro sui capigruppo, la candelarizzazione del verdetto, prima o dopo il voto in Emilia, e questa è la disputa. Per quello che riguarda la giustizia, sulla prescrizione Italia Viva si schiera con la Lega, l'ex premier, siamo rimasti fedeli alla legge, Orlando dice no a un processo senza fine, ma l'ex ministro attacca, noi non ci mischiamo alla destra. E riguardo alle regionali c'è una bella presa di posizione su tutte le varie regioni che si appresteranno al voto nel 2020. La prima è l'Emilia Romagna e poi c'è la Calabria, unità della sinistra, il sostegno di Bonaccini, il governatore del PD uscente, mentre invece in Calabria Oliviero, centrosinistra, non si ricandida. I Dem sostengono Pippo Callipo ma senza l'appoggio dei renziani, e c'è una proposta di riforma per i diciottenni alle urne e anche per il Senato, e c'è il sì della Commissione degli Affari Costituzionali. Non possiamo non transitare dalla canzone Morto un bischero, e leggo, in 600 sulla tomba di papà Bettino, ma non i Dem, si lamenta Stefania Craxi, e la cerimonia della mammetta, la Lega ha messo i suoi errori, loro mai, anche perché la Lega mi sembra sulla buona strada per ripetere coi rubli la via di Craxi. Ma dicevo, Zingaretti, asse con i 5 Stelle, no, si apre una fase nuova. Questo dopo il convento, dopo la riunione in conclave nel convento Resort. Io lavoro per rafforzare il PD, l'appello Italia Viva alle regionali, niente regali in quel di Salvini. Mentre gli anti Di Maio spaccati, solo in pochi al summit e sulla Calabria scontro. Quindi la Lega, scusate, 5 Stelle sono davvero a pezzi. 5 Stelle alla frana continua, arrivano altri addie in Senato. Di Marzio l'ha misto, Ciapollillo verrà espulso, si lavora per recuperare la Pacifico. Prove di corrente, sembra la balena bianca, il confronto sembrava una cosa unitaria. Ieri sera la Camera, riunione convocata da Dessì e Crucioli, erano in 10, quindi assolutamente disertata. Questo è il labirinto della politica. Sarebbe molto bello invece che ci si dividesse, magari ci si strappasse i capelli, su terreni magari diversi, tipo quello sulle morti sul lavoro, se l'agenda del lavoro entrasse nella politica. E allora noi cerchiamo nel nostro piccolo di provarci con l'intervista a Carlo Sorricelli dell'Osservatorio Indipendente sui morti del lavoro. Questo perché nei primi 14 giorni del 2020 sono morti sul lavoro 17 persone, è un numero alto di vittime che supera i giorni trascorsi dall'inizio dell'anno. Questo è il dato, sentiamo allora il commento di Carlo Sorricelli proprio dell'Osservatorio Indipendente sulle morti sul lavoro. sono già stati 17 morti per infortuni, poi ci sono tutti gli altri che muoiono per le strade, poi per le strade in itinere. È un dato che è in aumento rispetto al passato? Per il 2020 è troppo presto per dirlo. Quello che posso dire con certezza, visto che i morti li registriamo tutti, non solo gli assicurati INAI, che da 12 anni, quando ho aperto l'osservatorio, i morti sono aumentati. Quindi allora diciamo il 2019 ce l'hanno completo, rispetto al 2018 praticamente c'è stato un morto di differenza. Praticamente la situazione è sempre uguale, ecco. Noi negli anni scorsi avevamo assistito a un leggero calo, forse era dettato dalla crisi economica? No, non c'è mai stato, perché la crisi economica c'è, ma cosa è successo? Sono aumentati i morti in nero, perché non è che spariscono a fare i lavori, hanno contratti diversi o non ce l'hanno addirittura. Poi ci sono tutta una serie di lavoratori che spariscono dalle statistiche ufficiali, tra virgolette, che non hanno nessuna assicurazione, cioè lavorano in nero oppure sono in categorie che non sono assicurate all'INAIL, come poliziotti, vigili del fuoco, carabinieri, agricoltori, schiacciati dal trattore, tutta una serie di lavoratori che spariscono. Ne sono tantissimi. Per quanto riguarda la prevenzione e anche i controlli, com'è la situazione oggi in Italia? È tragica, perché cosa hanno fatto negli anni passati? Hanno diminuito, con un presunto calo strumentalizzato dalla politica e dalle lobby parlamentari, hanno praticamente alleggerito le normative sulla sicurezza e calati gli ispettori del lavoro, quindi conseguenza meno controlli e più infortuni sul lavoro, insomma. Vista la sua esperienza, le chiedo quali sarebbero le misure, insomma, per contrastare in modo serio e efficace questo fenomeno che purtroppo vediamo continuare di anno in anno. Prima di tutto una grandissima campagna informativa dicendo che i morti sul lavoro sono aumentati, non calati, quindi questione di serietà anche da parte della politica, che non è mai seria quando affronta queste cose qui, perché è legata, parlo di tutti, è legata alle lobby. Quindi ci vorrebbe una grande campagna informativa che faccia capire che i morti sul lavoro sono tantissimi. Siamo la nazione con più morti sul lavoro in Europa, quindi bisogna fare prevenzione, soprattutto aumentare gli ispettori, non far guidare i trattori, che è solo uno su cinque dei morti sul lavoro, anche l'anno scorso, ma è così tutti gli anni, sono provocati dal ribaltamento del trattore. Far prendere con un esame serio, non far rocco, la patente per guidare anche in terreni di proprietà, far guidare un trattore. Poi ci vuole prevenzione anche sulle strade, perché uno lavora 10 ore, poi soprattutto delle donne che lavorano a casa, lavorano sul lavoro, arrivano stanche morte e spesso muoiono, non dico come gli uomini, ma quasi sulle strade, insomma. Infatti volevo chiederle quant'è la percentuale più o meno dei morti in itinere? Allora, i morti in itinere sulle strade, mettiamolo generico perché mettiamoci anche di altri lavoratori, sono esattamente 110% dei morti sui luoghi di lavoro. Lo Stato li conteggia, però l'INAIL, che assicura molti lavoratori, non sono tutti, ma diciamo una percentuale elevata, non è che monitora come facciamo noi i morti sul lavoro, monitora le denunce che gli arrivano dal territorio, che non sono tutte. L'itinere ha una normativa specifica che è talmente tortuosa che uno, se per esempio prendi l'automobile, che ci sono i mezzi pubblici, anche se ci metti 2 ore tu dovresti prendere il mezzo pubblico, quindi sono cose di questo tipo qua. Oppure uno che devia dal percorso, va a prendere il latte per il figlio, e però non è nel percorso, diciamo, lineare per andare sul lavoro, anche quello lì non viene riconosciuta come tale. Infatti quando le denunce dell'INAIL vanno a vederle, un terzo di queste tutti gli anni spariscono, non sono più considerati morti sul lavoro. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:46 minuti primi e c'è una triste notizia dal Carlino riguardo il mondo del lavoro. Il primo caduto sul lavoro è del 2020, è caduto appunto nelle Marche, un morto sul lavoro nel cantiere di Camerano, un operaio di 49 anni, Pasquale Marigliano, della provincia di Napoli, è stato colpito alla testa da un bobcat. E ancora notizie sul lavoro, le riprendiamo dalle pagine del Sole 24 Ore, un articolo di Domenico Pagliotto che parla di Taranto. Il piano slitta, il sindaco e i lavoratori sono contro Patuanelli. Rinviato di un altro mese il tavolo istituzionale per il contratto di sviluppo. All'Ilva rientrano al lavoro dalla cassa integrazione 425 lavoratori. E ancora appunto si slitta riguardo a questa questione. Dicevi già appunto il Salvini che si tinge di martirologio. Salvini sarebbe il cristiano nell'arena dei leoni comunisti, secondo il titolo d'apertura del giornale. Attacco a Salvini, la Repubblica dell'odio. Il quotidiano di Scalfari vuole cancellare il leghista, uno schiaffo alla democrazia. Naturalmente questi signori, quando c'è qualcuno che li attacca sulla stampa, dicono attacco alla democrazia, perché non possono essere criticati. E quindi Alessandro Sallusti completa questo quadro di martirologio della destra radicale e la sinistra lincia Pansa appena morto, falsario e neofascista. È un tratto liberamente tratto da un testo di Micromega. Io devo dire che nei giorni scorsi non abbiamo detto né ba né qua su Pansa, per non dire delle sconcezze sulla morte per motivi di pietas umana, ma di grandi linciaggi a Pansa non abbiamo visto. Abbiamo visto in grandi elogi questo grande giornalista, ma il giornale l'ha trovato, l'ha scovato, lo mette in prima pagina con Alessandro Sallusti. Sempre in questo martirologio di Salvini, il Carino Bologna: Salvini contestato, non ho paura, anche perché quello che lo contesta è una signora anziana con un bertocchino rosso che grida, cioè non è che faccia molto paura, questo è, ma lui appunto non ha paura di niente se non delle rivelazioni dei testimoni sui rubli moscoviti. E allora processo a Salvini, qui passiamo alla 18, stallo sul voto, la Lega in pressing, niente rinvio, Grigoretti partiti divisi, Giorgetti se non è una scelta politica perché slitta dopo le regionali, e se non è una scelta politica perché la vuoi prima delle regionali? La domanda può essere anche rovesciata. Il ruolo di Casellati, la Presidente del Senato lavora un'intesa con Gasparri sul calendario, non so se sia, non deve essere complesso tra la Casellati e Gasparri trovare un'intesa. Ma Salvini ha questa campagna aggressiva che si dà appuntamento nei bar e dopodiché con questa scusa si fa il selfie mentre mangia qua il grana padano, di là si mangia una ringa, poi si beve un bicchiere di vino, insomma è più padano dei padani, almeno fino alla campagna elettorale. Devo dire che la Borgonzoni non c'è, anzi fa saltare anche il faccia a faccia con Bonaccini a Skype, che intanto non ha molto da dire, lascia parlare il suo capo. Colazione amara per Salvini, la pasticceria lo lascia fuori, primo piano del Corriere Bologna. Contestata a Casalecchio da Dolce Lucia, no con i tram a Borgo, con i tram, con i no tram a Borgo Panigale, se vinciamo cancelliamo l'opera. Questa naturalmente è la grande, la dimensione della campagna di Salvini, che cavalca tutto e tutto, poco gli interessa, pur di avere dei voti il 27-26, poi dopo auguri. Ma il titolare di Gabriele Gandini della Dolce Lucia, nei miei bar non si fa campagna, dice, elettorale, e quindi gli ha pregati anche di farsi in là, perché naturalmente c'era un problema di ordine pubblico, di troppe presenze nel bar e quant'altro. Questo è le colazioni amare, che il Corriere della Sera ricorda un altro precedente diverso, evidentemente, ma in qualche modo similare, quando l'almirante al Cantagallo, quando i lavoratori incrociavano le braccia per non servire quello che avevo definito un tribunale italiano fucilatore di partigiani. Adesso invece immagino che gli aprirebbero tutti i talk show del mondo, perché non si dice più fascista ma si dice controverso, o magari si dice al massimo sovranista, o magari primatista. Detto questo, sulla Lega abbiamo nuovi arrivi, non solo dai 5 Stelle, ma c'è anche Eleonora Cimbro. Chi è voi non lo so, non lo sapete neanche voi, ve lo dico io, comunque anzi ce lo dice Antonello Caporale dal Fatto Quotidiano: da Leu a Salvini per amore, il mio è quello del popolo. Quindi se il personale politico, direbbe in particolare la casacca è politica. Eleonora Cimbro, l'ex deputata PD, quindi era PD, prima passata Liberi Uguali, evidentemente ci chiedevano gli spazi nel PD, e poi la Lega. Questo perché la Lega prende su tutti, purché di far mancare una maggioranza a Conte. Insieme al fidanzato, è lì l'amore. Sono cambia casacca in due, una casacca a due cuori. Mi ha fatto riflettere Diego Fusaro. E Diego Fusaro è uno che fa riflettere. Figa, eh? È tremendo. E allora continuiamo con queste notizie. Il resto del Carlino appunto ci fa una cronaca riguardo a Salvini a Casalecchio, prima al bar Dolce Lucia dove viene cacciato fuori, poi davanti alla Casa della Conoscenza e della Cultura dove le sardine hanno scritto Casalecchio non si lega. E volevo parlare comunque di un argomento che abbiamo trattato ieri sulla pubblicità scorretta e l'FCA e le GIP che non fanno un buon servizio ai bambini. E oggi invece sul quotidiano nazionale Resto del Carlino c'è un'altra campagna, quella anti-alcol, che pubblicizza uno spot sessista. Sicilia, nel mirino l'iniziativa dell'assessorato alla salute è degradante. In rete c'è l'immagine di una donna con due calici di vino al posto del seno. È la Fondazione Bellisario alla testa della rivolta del web e i contenuti istituzionali sono con i soliti cliché rilegati alla donna. E allora, sempre tornando all'Emilia Romagna, Bonaccini promette autobus gratis, la proposta per gli studenti fino a 18 anni. E come dicevamo, Sky salta il confronto e Stefano attacca, perché la fa saltare la Borgonzoni. Ma la rete, l'incontro non era fissato. Beh, non ci va molto a fissarlo, comunque, questo. E come risponde Salvini alle sardine che domenica riempiranno Piazza Maggiore? In questo modo. Sardini attivisti contro Matteo, lui sono comunisti con il Rolex. Ora io non so quanto Salvini possa fare dei blitz sotto le giacche e le maniche per quanti Rolex hanno le sardine, ma non importa, l'importante è continuare questo cliché delle radical chic che sono di sinistra, mentre il popolo sano, vegeto e tradizionalista è con Salvini. Quella stronzata lì ripetuta all'infinito può sembrare anche vero, io non so, penso che abbiamo più Rolex immagino i deputati leghisti che non le sardine in piazza. Detto questo, dopo fatto il censimento dei Rolex, l'appello svegliati gli indecisi a chi dubbioso, perché stavolta anche un solo voto può fare la differenza. In questo senso ha ragione Salvini, quindi noi facciamo l'appello alla rovescia, anche perché vorremmo continuare ad andare al bar a prenderci un cappuccino, una brioche, perché il bar, come diceva anche Buñuel, è il posto più libero del mondo, a meno che prima che arrivi Salvini con le sue schiere, con i suoi schierati. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchier di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. da solo al bar. Gli altri sono tutti quanti a casa. E quest'oggi, verso le tre, son venuti quattro ragazzini. Sono seduti lì vicino a me, con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar, che hanno voglia di cambiare il mondo. E con questi giovani al bar che vuoi cambiare il mondo, veniamo ai ragazzi che si battono contro il cambiamento climatico per salvare la nostra terra, che ovviamente fa parte anche degli argomenti trattati dall'extraterrestre, l'inserto presente nel manifesto il giovedì. Infatti Stella Levantesi da New York oggi scrive: emergenza climatica e razzismo ambientale. Infatti il razzismo va a braccetto con la distruzione. Ovunque sulla terra, Italia compresa, la comunità più le comunità più marginalizzate vivono nei luoghi più colpiti dal riscaldamento globale. Sono le meno colpevoli e sono quelle più colpite. Ed è un classico. Si parlava di classismo anche con la scuola, ma sull'ambiente non è diversamente, non va diversamente. Secondo l'Istituto dell'ONU, l'impatto del disastro ambientale sarà più duro non solo per i poveri, ma anche per gli anziani, i giovani, gli indigeni e i più vulnerabili, insomma quelli che possono meno ripararsi di fronte alle distruzioni ambientali. Ma il manifesto oggi è una pagina ottimistica, con Anna Maria Merlo scrive: l'Europa al suo Green Deal, un passo avanti per il clima. L'Europarlamento approva a larga maggioranza il piano migliorato della Commissione. Sale al 55% l'obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030, ricordando che però nei finanziamenti per il Green Deal c'è anche il finanziamento delle centrali nucleari che ha voluto fortemente Macron dalla Francia. E comunque, facendo i conti in tasca al climate change, vero o falso, Marco Palombi dalla pagina del Fatto Quotidiano dice: l'European Green Deal, i soldi nuovi sono 7 miliardi e mezzo, devo dire che non sono sprecati rispetto all'emergenza e quello che bisognerebbe fare. Dunque la Ursula von der Leyen ha detto: il nostro piano mobiliterà almeno 1.000 miliardi di euro. Speriamo che sia come il sapone, che più lo sfreghi più fa le bolle, questi 7 miliardi e mezzo. 1.000 miliardi è la cifra totale di che si spera di attivare, i fondi pubblici per chi può, per far partire gli investimenti privati. I rischi della transizione: le linee guida già decise dirotteranno maggiori risorse verso le aree più ricche e più inquinanti della Unione. Ma dal Fatto Quotidiano torniamo al manifesto, perché non tutti sono entusiasti di questa nuova Europa. E ora leggo che la leader del Friday for Future, l'attivista tedesca Luisa Neubauer, denuncia il governo Merkel all'alta corte. La Germania, la situazione ambientalista, depositano tre procedimenti giudiziari. Ce lo racconta Sebastiano Carretta dal manifesto e da Berlino. Questa Luisa Neubauer ha rifiutato la proposta di un incarico alla Siemens, perché altrimenti quando uno è bravo e dimostra di saper fare, si cerca sempre di cooptarlo. Ma vengo allora a proposito di ambigue giravolte. Il diesel non è green, l'antitrust multa Eni. È pubblicità ingannevole, perché la pubblicità dice: vuoi che la tua auto duri più di inquini di meno? E questo è a proposito di pubblicità ingannevole, prima si parlava anche offensive. E qui veniamo allora al titolo dell'extraterrestre: a tutto gas. La Sardegna è l'unica regione italiana non metanizzata. Sappiamo che il metano sviluppa vapore acqua, quindi non contribuisce all'inquinamento. L'emergenza climatica dovrebbe spingere a puntare sulle energie rinnovabili, come indicato ieri dal Parlamento europeo, ma il governo nazionale e quello regionale vanno in direzione opposta. Il progetto di costruzione del gasdotto di 2 miliardi di euro che attraverserà l'isola sta però generando aspre polemiche. Sono contro gli ambientalisti di Friday for Future, per l'appunto l'opera antistorica ed inquinante. A favore invece ci sono le partite SNAM, che realizzerà l'opera. Più metano vuol dire meno carbone. Sì, grazie. Continuiamo sull'argomento ambiente. Riprendiamo il Green New Deal di Ursula von der Leyen del Parlamento europeo, dicendo che la manovra appunto durerà fino al 2050, i primi 10 anni saranno 1.000 miliardi, e la manovra si svolge su due fronti. Il primo è la riduzione delle emissioni inquinanti e la seconda è l'adattamento da parte degli esseri umani. E sulle pagine della Stampa c'è un articolo appunto che parla di economia e finanza di Marco Bresolin e dice: caccia ai fondi verdi, l'Italia riceverà fino a 4,8 miliardi, Alfredo diceva 7,5, qui c'è un ballo, un rimpallo delle cifre. A farla da padrona nella transazione energetica sarà la Polonia con 27 miliardi per l'appunto. E c'è appunto, riprende anche la notizia dell'antitrust che ha mollato una multa di 5 milioni a Eni per la pubblicità ingannevole sul biocarburante, il colosso petrolifero. Siamo sorpresi per la decisione, faremo ricorso al TAR naturalmente. E c'è un'altra notizia paradossale, Tesla, la nota fabbrica mondiale di macchine elettriche, sta cercando di aprire una nuova fabbrica dalle parti di Berlino e fa per fare spazio alla costruzione della nuova fabbrica vuole radare al suolo una foresta. Ancora abbiamo notizie sull'ambiente dalle pagine del Repubblica e si parla fortemente di smog. Lo smog è auto sotto accusa per l'inquinamento, ma al nord la metà delle polveri sottili è prodotta da caldaie a legno e a pellet. Nel bacino padano la prima sorgente di emissione di polveri sottili è rappresentata dal settore del riscaldamento per il 55%. A Roma sono ancora fermi i diesel, ma i valori restano alti. La Raggi non è molto d'accordo. E a Bologna, questa è la cronaca locale, Valerio Valesi, c'è un picco di 80 microgrammi per metro cubo di aria registrati a Porta San Felice dalla centralina dell'ARPA e 30 in più dalla soglia fissata a 50, con confronto a ciò che è stato misurato nella vicina Modena, 103 per l'appunto. Più del doppio consentito. Spiegare quello che è successo non è facile. Il perché di questa impennata di valori, che non si erano mediamente contenuti dai 50 ai 70 microgrammi fin da Natale, ha forse un'origine di ragioni parecchio complesse. E non so se ricordate, nel 2002 alcuni soloni delle amministrazioni si erano inventati che lavando ripetutamente le strade si sarebbero dovute abbattere le polveri sottili, cosa che non si è per niente verificata. Ancora notizie sull'ambiente le prendiamo dal giornale settimanale Nature, che ha pubblicato un articolo con gli 11 scienziati emergenti più che diventeranno famosi nei prossimi anni, fra cui nella lista ci sono ben due italiani. C'è una menzione anche a quello che riguarda Greta Thunberg per il suo ruolo e la sua attività di promozione della scienza, perché nei suoi lunghi discorsi ha sempre tirato in ballo i dati degli scienziati. E c'è un'altra menzione a un 71enne brasiliano, ex ministro del governo Bolsonaro, professore che si era occupato appunto delle analisi e delle statistiche sulla foresta Amazzonia, ed è stato quello che ha pubblicato appunto queste statistiche, e a causa di questo è stato licenziato all'università da Bolsonaro ed è stato fatto dimettere dal governo appunto brasiliano. Sarà anche sgarbato ragionare in termini solo di soldi, però i soldi nella loro brutalità dicono delle cose. Per esempio, abbiamo visto quanto si è ridotta la cifra che l'Unione Europea, Parlamento dedica per questa svolta green, che dobbiamo dire anche dove vanno, a chi vanno poi questi soldi. Per cui passo la cronaca da Messina: la mafia dei pascoli in tasca 10 milioni di fondi dell'Unione Europea, quindi c'è un problema anche di controlli di chi fa un utilizzo di soldi in un modo che li fa in verso completamente opposto. C'erano le famose vacche di Mussolini, cioè questi terreni venivano presentati come veri, poi sparivano e uno beccava i soldi e finiva lì, tutto finto. Tra i politici coinvolti in inchiesta il sindaco di Tortorici, 94 le persone arrestate nei Nebrodi, questo clan dei Nebrodi. Ma sempre a porto di soldi, confrontiamo gli investimenti che si fanno. Parliamo di autostrade, visto che continuiamo a parlare di territorio, ambiente, mobilità. Autostrade, ritiro maxi multa, si decide dopo il voto in Emilia, anche qua. In teoria cosa dovrebbe centrare la sicurezza nelle strade e della malversazione con voti in Emilia, ma sappiamo che tutto è legato alle fibrillazioni delle varie corporation, delle lobby, dei singoli correnti di partiti. c'è anche l'ipotesi di una revisione profonda nelle concessioni con una revoca parziale. Andrea Ducci dà questa, così, questa versione più soft della revoca e basta. E qui Atlantia, i Benetton lamentano una perdita di denaro di 20 miliardi. Queste sono le cifre che riguardano autostrade. Passi invece poco più avanti, sempre il Corriere, 10 pagine più avanti, a pagina 21. Terremoto, spesi solo 49 milioni per la ricostruzione. Cioè, vecchi, 49 vecchi miliardi di lire, che rispetto ai 20 miliardi di euro è niente. Eppure che è il terremoto ha lancinato mezza Italia. La denuncia che arriva alla Nazione Nazionale Comuni Italiani. Anche in centro Italia è tutto fermo. I sindaci, procedure complicate anche per i privati. Questo è quello che arriva. Ma evidentemente la politica, o presunta tale, si concentra sulle cose più di pancia. E allora abbiamo la pagina di Libero, che in quanto a pancia forse più in basso non è quasi secondo a nessuno, forse arriva dopo solo La Verità. Coscienze sporche, i bambini di Bibbiano non interessano al PD. La sinistra sottovaluta le angherie subite dai minori e dai loro genitori nel comune emiliano e accusa il Carroccio di speculare nell'inchiesta. No, non c'è nulla di elettorale, ma sarebbe ingeneroso pensare che si strumentalizza questa vicenda per fine elettorale. Sarebbe davvero ingeneroso. E anche il Fatto Quotidiano, che in qualche modo cerca di buttare una ciambella ai 5 Stelle rispetto a una debacle in Emilia Romagna annunciata dai sondaggi, dice Bibbiano, orrori senza fine. Dentro le carte l'inchiesta degli stessi PM che appunto hanno costruito questa vicende, che sono anche abbastanza smentite dalla stessa Cassazione. Comunque, come si dice, aspettiamo l'esito delle indagini. Nel frattempo ci becchiamo tutta la propaganda. Sì, ancora notizie di cronaca, le prendiamo dalle pagine di Repubblica. Alessandra Candito e Dario Del Porto ci dicono che è stato arrestato il presidente di sezione di Corte d'Appello a Catanzaro, corrotto. Le contropartite per i suoi favori erano gioielli e anche cassette di gamberi e incontri a luce rosse con le avvocate aiutate nei processi, con una di loro documentati 16 rapporti sessuali in ufficio addirittura. E ancora un'altra notizia, il capitano ultimo col il comandante dei carabinieri di Palermo, che ai suoi tempi arrestò Totò Riina, perde la scorta. Sergio De Caprio resta senza scorta. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso che era stato presentato dal capitano ultimo, questo è il nome di battaglia dell'ufficiale dei carabinieri che esattamente 27 anni fa arrestò a Palermo il capo di Cosa Nostra Totò Riina dopo una latitanza di 23 anni. Da oggi colpire il capitano ultimo sarà più facile per tutti. Il polemico commento di De Caprio, che in un post su Twitter attacca il comandante dell'arma dei carabinieri. Oggi 15 gennaio il TAR del Lazio ha respinto il ricorso per mantenere la sicurezza del capitano ultimo e la sua famiglia. E La Stampa invece oggi ha questa foto, padre Georg, quello che era appunto l'uccello di rovo di Papa Ratzinger, per intendersi, terzo papa nel pasticcio sul celibato dei preti. Quindi veniamo al papa e all'antipapa, cioè il papa in carica e il papa emerito, per essere più precisi. Il papa in carico, beh, dà un altro schiaffo ai tradizionalisti, per cui leggo Francesca, la prima donna ai vertici del Vaticano, una cosa intollerabile per questi nuovi lefebriani. Nominata vice ministra a quei rapporti con gli stati, lei dice sono sorpresa, ma sono ancora più sorpresa e scandalizzati i suoi nemici. Questo allora veniamo al papa e l'antipapa, anzi su questo celibato dei preti. Abbiamo questo parroco violato l'obbligo di castità, c'è la prova, la curia padovana contro Don Marino, dice Giuseppe Petrobelli dal Fatto Quotidiano. Don Marino ha questo processo canonico per il parroco di Albignasego, per forza la castità Albignasego, no Albignasego, nel provincia di Padova. Sono un sacerdote scomodo, questo dice. Nel frattempo, da ieri disponibile in Francia, Benedetto XVI usato per un testo falso e arcaico. Lo è qui, c'è tutta la contesa su Kipse Dixit. È vero o non è vero Kipse Scrixit? Non lo so. Sembrerebbe che sia abbastanza vero. Certo che c'è chi prova a disinnescare l'attacco, tra questi lo scrittore di francese Frédéric Martel, su questo volume un grande scoop è finito in una grande buffonata. Conservatori, la fine del celibato, il sacerdotale vicino, il cardinale lo sa e lancia la crociata. Questo è quanto. E poi non c'è però il celibato per i magistrati, perché leggo soldi e sesso in cambio di sentenze aggiustate. Da Salerno, arrestato Marco Petrini, presidente dell'alta corte d'assise d'appello di Catanzaro, scambio di favori, l'alto magistrato gradiva anche cibo pregiato, vacanze, appartamenti. Insomma, come dire, esiste una leggera legittima sospicione su questo personaggio. D'altra ancora abbiamo altri spunti che arrivano, che per esempio sono legate allo scandalo dei reali dei Savoia, perché ci può essere una regina Vittoria, e questa cosa, racconta Quelli della Sera, sta scandalizzando tutti gli ambienti monarchici, perché non si fa questa cosa. Sì, 10 e 12 minuti primi, rassegna stampa di Radio Città Fujiko, ed entriamo a piedi pari negli argomenti dell'estero con la tregua fra Cina e USA dei dazi. Ora firmano l'intesa, ma l'Europa rischia ritorsioni. Pechino acquisterà beni e servizi americani per più di 200 miliardi. La guerra dei dazi, gli USA e la Cina hanno firmato una tregua. Pechino comprerà 200 miliardi, come dicevo, da Washington, di mezzo ai dazi, su 120 miliardi di export cinese. Adesso è l'Europa a rischiare. Nel mirino degli USA i sussidi ad Airbus, le tariffe auto europee e i governi UE che applicheranno la web tax. Questa è la prima notizia che riguarda gli esteri e riguarda appunto gli affari internazionali. E poi prendiamo il resto del Carlino. La rivoluzione di Putin, obiettivo restare al potere, lo zar cambia costituzione, più forza al Parlamento che sceglierà il governo, così quando non potrà più candidarsi presidente punterà a fare il premier. E si dimette il fedelissimo Medvedev nell'esecutivo. La risposta è stata per dare la possibilità a Putin di attuare più velocemente le sue riforme. Il mandato di Putin scatterà il 2024 e c'è già chi specula sul fatto che il successore dello zar sia lui stesso, e forse è anche per questo che sta cercando di cambiare la Costituzione, nella quale al momento c'è scritto che lui è al suo ultimo mandato, per l'appunto, in Russia. Ancora riguardo l'estero, prendiamo notizie dalla stampa, sempre accordi USA e Cina prendono lo spunto sulla parte economica, e c'è una fotonotizia nelle pagine centrali della campagna contro la violenza, lividi sui volti delle donne famose. Le persone passano davanti a Just Because I'm a Woman, una nuova serie di opere dell'artista e attivista italiano Alessandro Palombo, che descrivono alcune donne protagoniste della politica mondiale, vittime della violenza di genere. La politica birmana San Suu Kyi, il cancelliere tedesco Angela Merkel, la deputata USA Alexandra Ocasio-Cortez, la moglie del presidente francese Brigitte Macron, l'ex First Lady Michelle Obama e l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, la presidente del Congresso nazionale indiano Sonia Gandhi. La serie mira a sensibilizzare e ottenere risposta delle istituzioni politiche alla violenza domestica contro le donne di tutto il mondo. Andiamo nella zona medio orientale, e cominciamo dal Libano, dove è in corso, nella disattenzione generale, una vera e propria sollevazione, quasi rivoluzione sociale, con la gente perennemente in piazza non solo a Beirut ma anche nelle altre città del paese dei cedri. Scontri a Beirut, dice Pasquale Porciello dal Manifesto, in frantumi le banche della crisi. Si riaccende la protesta libanese contro il governo ed entrano in una nuova fase con guerriglia, con la polizia, 47 feriti e 59 arrestati. Hariri, premier di missionario, parla di infiltrati, ma è la povertà ad aumentare, quindi questa è la benzina che crea il malcontento sociale. Nel frattempo le bombe turche a Sinjar contro le unità yazide centro i curdi, la strategia di multipla di anti-PKK, secondo Ankara, quindi fonte insospettabile direi, visto che è la fonte di Erdogan, sono aumentate del 150% le azioni militari contro le postazioni curde nel nord della Siria. Questo nel sud della Siria, questo è quanto. Ma mi sposti invece nell'area più tormentata in questo momento, o meno, non più tormentata, no, perché serve un bel elenco, una bella classifica difficile da compilare, dallo Yemen alla Siria, ma la più letta e più discussa, la Libia. Sabbie mobili, dice il Manifesto. Di Maio e Conte pacifisti per forza, in Libia solo per monitorare la pace. Alle Camere i propositi contro la guerra del governo per coprire lo scorso peso del nostro paese e la stessa Unione Europea. Questo mentre Rohani avverte tutti gli eserciti stranieri, italiani compresi, in Medio Oriente siete in pericolo. Le Boeing ha battuto, l'esercito si scusi con il popolo, dopo il lutto riparte il campionato di calcio. Vuol dire che tutto, come ogni paese è uguale, passata la temperatura tempesta, riparte appunto il calcio. La, ancora andiamo a dall'Iran, la scelta di Jabari viene molto commentata. Jelan Jabari, presentatrice di TV, si è scusata su Instagram, lascia il TV iraniano dopo anni di bugie. Probabilmente avrà un contratto con la CNN, immagino, o con Al Jazeera. Non voglio fare la presentatrice di una TV che mente alle persone. Questo tardivo ripensamento comunque lo apprezziamo. Ma su queste missioni di pace qua e là interviene Del Boca, uno storico che conosce bene la questione dell'imperialismo e colonialismo in italiano, in Africa. Del Boca, noi in missione, ma a nome di chi e contro chi? Con chi andiamo e perché andiamo in Libia? Questo non è ben chiaro, per esempio. I caschi blu europei e le altre incredibili sciocchezze vengono segnalate dallo storico Del Boca. Da subito dobbiamo chiedere alla conferenza di Berlino il 19, se ci sarà, che le due parti in conflitto riconoscono la Convenzione di Ginevra per i profughi che sono sotto il loro controllo. Questo sarebbe già un primo passo importante su questo tema. Sulla Libia, allora, un servizio che ci offre la nostra redazione, perché sentiamo la giornalista Nancy Porsia, che ci aiuta a capire la partita che si sta giocando sul terreno proprio della Libia. In questo momento in Libia si sta portando avanti una guerra per procura che fino al scorso settembre era prettamente di natura regionale, ossia tra attori del Golfo e del Nord Africa. Haftar è stato sin dall'inizio della guerra civile in Libia, ricordiamolo, che è partita nel 2014, sostenuto da Egitto, Emirati Arabi e anche Giordania. Per inciso, la Francia è sempre stata al fianco di Haftar, garantendogli missioni di spionaggio piuttosto che forze sul campo, mentre la stessa Francia sedeva al tavolo dei negoziati per il dialogo nazionale supervisionato dalle Nazioni Unite. Invece Tripoli, quindi la coalizione di gruppi armati che fa capo al premier riconosciuto dalle Nazioni Unite e della comunità internazionale Sarraj, è stata sostenuta sin dall'inizio dalla Turchia, quindi attori assolutamente regionali. Che cosa è successo? A partire da settembre, con l'ingresso della Russia sul campo libico, ricordiamo a settembre la Russia ha mandato centinaia di soldati della società di contractor Wagner, che è appunto il braccio armato di Mosca, anche se poi essendo una società contractor privata fa sì che la Russia riesca a defilarsi dalle sue responsabilità statuali rispetto a quanto poi viene effettivamente esercitato da questi mercenari. Dal momento in cui la Russia è entrata in campo, chiaramente la Libia è passata, il terreno libico è passato da una guerra per procura regionale ad una guerra per procura a livello internazionale. L'arrivo dei mercenari russi ha subito sortito un effetto importante sul campo di battaglia, perché ha portato con sé una tecnologia antiaerea importante, ricordiamo l'abbattimento anche del drone italiano di cui poi non si è avuta più notizia, e anche di un drone, se non erro, americano. Quello era un chiaro messaggio da parte della Russia all'Europa e alla comunità internazionale più in generale, per dire che appunto Haftar aveva accanto a sé Mosca e che l'offensiva su Tripoli lanciata lo scorso aprile sarebbe arrivata presto ad un punto di svolta. Questo tipo di messaggio è stato subito raccolto dalla Turchia, che ha deciso nel giro di un mese, già a novembre si parlava dell'accordo che la Libia di Tripoli avrebbe siglato appunto con la Turchia per i diritti di esplorazione petrolifera al largo delle coste turche e libiche. Questo ovviamente era un passaggio necessario per poter legittimare una sorta di alleanza anche militare tra i due paesi, che poi appunto è scaturita nella richiesta da parte di Tripoli per un intervento armato da parte di Ankara sul territorio libico al fianco delle forze del governo di accordo nazionale. Da quel momento in poi, come dire, la dormiente Europa, in primis l'Italia, ha deciso di tornare a lavorare sul dossier Libia. Quindi assistiamo alle giornate concitate, agli incontri concitati delle ultime due settimane, in cui il capo di governo italiano Conte, insieme ai premier degli altri paesi europei e al presidente europeo Borrell, incontrano Putin, Erdogan, il presidente algerino, del presidente tunisino, proprio per poter definire un nuovo assetto nella regione. Sta di fatto che sul campo ci sono ufficialmente due forze, due fazioni rivali, Tripoli versus Haftar, anche se qui va fatta una precisazione importante. Mentre Tripoli, sin dall'inizio del processo di dialogo nazionale che è partito nel settembre del 2014, quando appunto la Libia si è spaccata in due tra est e ovest, ha dimostrato una volontà politica chiara di cercare una risoluzione diplomatica, mentre Haftar, sempre dal giorno 1 di questo processo di dialogo nazionale, ha mostrato di voler sabotare in tutti i modi il processo di dialogo nazionale e di voler invece trovare una soluzione militare sul campo, forte del suo alleato egiziano, perché in realtà l'Egitto, il Haftar, parla per interposta persona per Al-Sisi, che appunto cerca una sorta di succursale economica egiziana in Libia. E quindi quello che oggi sta accadendo, il fatto che Haftar prenda più giorni, non firmi l'accordo, era abbastanza prevedibile. Quello che non è dato sapere è se anche dietro questa sorta di pantomima ci sia dietro un accordo già preciso tra la Russia e Haftar. Sta di fatto che Haftar ha dimostrato negli ultimi 5 anni di non essere interessato ad alcuna risoluzione diplomatica, ma soltanto ad un confronto armato sul campo. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. E a modo suo anche il giornale parla di guerra, con Gian Michele Sin, la persecuzione. Cristiani, il martirio ignorato in 260 milioni sono in pericolo, perché i musulmani evidentemente in Yemen, in Siria, in Iraq e in Libia se la passano benissimo. Comunque, preoccupano i dati della watch list della Open Doors, e allora interviene Del Mastro di Fratelli d'Italia: è un vero genocidio, si deve reagire. Il che ci porta, cambiando completamente parrocchia, andando al giornale comunista online Contropiano, queste crociate, che così descritte: prega Dio e passami le munizioni. Quindi alla fine l'unico vero Dio sono i mercanti d'armi. Il nazionalismo religioso disegna nuove identità. E allora noi che leggiamo i giornali vorremmo ispirarci a questo scritto di Mario Tronti, quello dei Quaderni Rossi del Tempo. Profezia non è predire, non è nemmeno prevedere. Il profeta non vede il futuro, vede il presente. Vede nel presente quello che gli altri non vedono e dice del presente quello che gli altri non vogliono ascoltare. Deve far vedere, deve far ascoltare. E a volte è necessario il grido della folla o il parlare nel deserto. Grazie Alfredo. 10:24 minuti primi, siamo alle battute finali di questa rassegna stampa. Continuiamo a parlare di estero e lo facciamo segnalando un bell'articolo di fondo sulla Repubblica di Moses Naim, scrittore e giornalista venezuelano, ma anche professore al Massachusetts Institute of Technology. L'articolo si chiama Il prezzo del sangue e inizia con: ogni anno ci sono 500.000 di persone che vengono assassinate in tutto il mondo. Naturalmente queste morti sono devastanti per le famiglie delle vittime e su chi li voleva bene, ma ci sono anche uccisioni che fanno sentire i loro effetti ben al di là delle cerchie dei parenti e che cambiano il mondo. Questi omicidi trascendentali possono rivelarsi molto costosi. L'esempio più eclatante è l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria nel 1914, e quelli più recenti sono Jamal Khashoggi nell'ottobre del 2018 e quello del generale iraniano Qassem Soleimani il 3 gennaio 2020. Le due vittime sono diversissime fra loro, ma hanno in comune una cosa importante: tutte e due sono state uccise da un governo che ha ordinato la loro esecuzione. Il giornalista saudita è stato ammazzato dal suo stesso governo, mentre l'uccisione del generale iraniano è stata ordinata dal presidente degli Stati Uniti. Donald Trump celebra apertamente la sua decisione di eliminare il feroce militare iraniano, e mentre invece Il principe della corona dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, nega qualsiasi coinvolgimento dell'uccisione di Khashoggi che è avvenuta, ricordiamo, dentro al consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. Le ripercussioni, conclude questo articolo, della decisione di assassinare Soleimani saranno tante e varie, ma due sono già evidenti. La prima è che la presenza militare statunitense in Oriente si espanderà almeno nel breve termine, riportare i soldati a casa era una promessa elettorale ed è ancora uno slogan largamente usato dal presidente Trump. Questa promessa, che già si stava dimostrando difficile da realizzare, ormai sembra fuori della portata di mano. Il secondo effetto, l'omicidio di Soleimani, è che l'accordo sul nucleare iraniano, in cui la Repubblica Islamica prometteva di limitare il suo programma nucleare, è definitivamente tramontato. Ci sono altre due notizie che riguardano il rapporto uomo-donna. La prima è per dagli Stati Uniti, la corsa alla Casa Bianca. C'è stato un conflitto fra due democratici. Elizabeth Warren, settantenne senatrice del Massachusetts, e Bernie Sanders, del Vermont, 78 anni. La battuta è stata: solo un uomo batterà Trump alle prossime elezioni, e la Warren in TV litiga con Sanders. E ancora una notizia che riguarda le donne, arriva dalla Grecia. Caterina è la prima donna capo dello Stato in Grecia, indicata dal premier Kyriakos Mitsotakis, scelta non di parte, e c'è stata già una critica da parte di Tsipras. E chiudiamo con questa dichiarazione che arriva dalla Brexit: presto la Scozia sarà indipendente, noi vogliamo l'Unione Europea. Intervista il leader nazionalista Blackford, vedremo se questo appello della Scozia avrà un consenso popolare come tutto lascia indicare. Con questo noi ci congediamo con la rassegna stampa, 10:28 minuti, naturalmente a seguire il rock di Mago G, Andrea e dell'Angela. Ciao, a risentirci. Ciao, alla prossima.